lo sai di chi sei, non lo sai. Tu non lo sai di chi sei, non lo sai. Di chi sei, non lo sai. La mia vita taglia come un samurai. Tu non lo sai di chi sei, non lo sai. Tu non lo sai di chi sei, non lo sai. Tu non lo sai di chi sei, non lo sai. La mia vita sbatte contro un guardrail. Ti ho vista platinata, ti ho vista denudata. Ti ho vista truccata, tappata, patata, bandana, tabacco, tavernello collassata. Bimba pettinata, cilica imbronciata. Sì che lo so che tu sei la mia musa. Sì che lo so che tu sei la mia musa. Il silenzio ci annusa, il silenzio profuma di candele del supermercato della Coop. Non mi basti, lo so, non mi basti, lo so. Sei di pasta, di do, di metallo freddo. E forse tu pensavi fosse finito tutto. Forse tu pensavi fosse finito tutto. Mi lasci qui distrutto, mi lasci muto assurdo. Voglio un'onda d'urto, il furto degli occhiali. La vita ci inviluppa, diventiamo tutti uguali. Stimoli banali, ultrasensoriali. Tu non lo sai di chi sei, non lo sai. Dopo una trombata di chi sei, non lo sai. Dopo una pippata di chi sei, non lo sai. La mia vita taglia come un samurai. Tu non lo sai di chi sei, non lo sai. Dopo un'avventura di chi sei, non lo sai. Dopo una futura di chi sei, non lo sai. La mia vita sbatte contro un guardrail. La mia vita sbatte contro un guardrail. La mia vita sbatte contro un guardrail. Passati su MTV, facciamo ancora gli operai. 200 canzoni, 300 canzoni. Nella mia vita ho fatto 500 canzoni. Ma poi di chi sei, non lo sai. Poi di chi sei, non lo sai. Ci vuole un viaggio all'estero, cerchi ispirazione. Una gita in un museo, una gita in un museo. Vestito da plebeo, faccio ancora il controllore. Ma basta accontentarsi di panini caldi. E se ci pensi è vero, basta solo accontentarsi. Apriamo un negozio di saltimbanchi. Spengo nella stanza la cica sul parquet. Voglio un'altra vita, una vita demodé. A volte è tutto qui, questa vita è tutto qui. Manca savoir faire, la vita è tutto qui. La mia donna tutto qui, la mia casa tutto qui. Il mio lavoro tutto qui, sembra poco se è così. La mia donna tutto qui, la mia casa tutto qui. Il mio lavoro tutto qui, sembra poco se è così. Cerchi vene artistiche, dimmi di chi sei. Cerchi pene mistiche, dimmi di chi sei. Cerchi vene artistiche, dimmi di chi sei. Cerchi pene mistiche, dimmi di chi sei. Voglio le lancette che vadano al contrario. Voglio le lancette che vadano al contrario. Voglio le lancette che vadano al contrario. L'orologio lo chiudo nell'armadio. Timpati tam papatum pim pepi. Tum patatim papatum pim pepo. Tum patitam papatum pim papo. Tim papatum pupatum pim pepo. Ma quale precariato, il lavoro è dietro l'angolo. Dondolo, dondolo, dondolo mi impolvero. Dondolo, dondolo, dondolo mi impolvero. Torno dal lavoro, mi vedo pimpanti. Io uno zombie, io uno zombie. Non sono un marocchino, non faccio il muratore. Non sono un burattino, non faccio il saldatore. Vuoi la soluzione? Cambia religione, cambia la nazione, cambia anche il tuo nome. Tutti i giorni tu di chi sei non lo sai. Tutti i giorni tu di chi sei non lo sai. Tutti i giorni tu di chi sei non lo sai. La mia vita taglia come un samurai. I don't like you, oh. I don't like you, oh. I don't like you, oh. I don't like you, oh. I don't like you, oh. I don't like you, oh. I don't like you, oh. I don't like you, oh. Sono tarantelle da MySpace, ma trova un lavoro sicuro e pensa alla pensione che il tempo passa. Enjoy sul beat, Garbagnate Street. Enjoy sul beat, Garbagnate Street. Seroblio, Seroblio, Seroblio, yeah.